Diciassettesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, diciassettesimo canto. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia per la qual vedessi, non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilmente entra per essi, e fia la tua immagine leggera in giugnere a veder com'io rividi lo sole in pria che già nel corcar era. Sì, pareggiando i miei coi passi fidi del mio maestro, uscii fuor di tal nube, ai raggi morti già nei bassi lidi. O immaginativa che ne rube, talvolta sì di fuor, com non s'accorge, perché d'intorno suoni in mille tube? Chi muove te se il senso non ti porge? Muoveti lume che nel ciel s'informa, per sé o per voler che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei che mutò forma, nell'uccel ch'a cantar più si diletta, nell'imagine mia apparve l'orma. E qui fu la mia mente sì ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia un crucifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo, che fu al dire e al far così intero. E come questa imagine rompeo, sé per se stessa a guisa d'una bulla, cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla, piangendo forte, e dicea: «O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, ormai perduta, io son essa che lutto, madre, alla tua pria ch'a l'altrui ruina. Come si frange il sonno ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai che quel ch'è in nostro uso. I mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse: qui si monta, che da ogni altro intento mi rimosse, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava, e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Questo è divino spirito che nella via da ir su nella drizza senza prego, e col suo lume se medesmo cela. Si fa con noi come l'uom si fa sego, che quale aspetta prego e l'uopo vede, malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede, procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimi presso quasi un muover d'ala, e ventarmi nel viso e dir: beati, pacifici che son sanz'ira mala. Già eran sovra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perché sì ti dilegue? Fra me stesso dicea che mi sentiva la possa delle gambe posta in triegue. Noi eravam dove più non saliva la scala su, ed eravamo affissi, pur come nave ch'a la piaggia arriva. e io attesi un poco s'io udissi alcuna cosa nel novo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: «Dolce mio padre, di quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Se i piè si stanno, non stea tuo sermone». Ed egli a me: «L'amor del bene, scemo del suo dover, qui ritta si ristora, qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora». «Né creator né creatura mai», cominciò el, «figliuol fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errar per malo obietto, o per troppo o per poco di vigore. Mentre che egli è nel primo ben diretto, e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto. Ma quando al mal si torce, o con più cura, o con men che non dee corre nel bene, contra il fattore adovra sua fattura. Quinci comprender puoi ch'esser convene amor semente in voi d'ogni virtute ed ogni operazion che merta pene. Or perché mai non può dalla salute amor del suo subietto volger viso? Da l'odio proprio son le cose tute. E perché intender non si può diviso, e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo bene stimo, che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso, amor nasce in tre modi in vostro limo. È chi per esser suo vicin soppresso spera eccellenza e sol per questo brama che el sia di sua grandezza in basso messo. È chi podere, grazia, onore e fama teme di perder per ch'altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama. Ed è chi per ingiuria parca onti sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor quaggiù di sotto si piange, or vo che tu dell'altro intende, che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si queti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira, o a lui acquistar questa cornice, dopo giusto penter ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice, non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. L'amor ch'ad esso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Fine del 17° canto del Purgatorio.